La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci, eccoci insieme amici, un saluto da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea, l'ora di cinema di Radio 24, è una settimana da grandi titoli, da film che arrivano in sala con i muscoli ben in vista e quindi è una settimana nella quale c'è molto da dire, molto da chiacchierare, facciamolo da subito, ma prima i nostri titoli di testa. Pietà, il Leone d'Oro di Venezia, arriva in sala. Storia di redenzione e vendetta di uno strozzino senza scrupoli e di una donna misteriosa che dice di essere sua madre. Sullo sfondo dei bassifondi di Seul. Unico film italiano entrato nel palmarès veneziano arriva sugli schermi. È stato il figlio. Una Palermo periferica, una famiglia numerosa, il sogno di una vita migliore, i soldi spesi in futilità e un delitto che segnerà una vita. Alla Rosa Purpurea, intervista col regista Daniele Cipri. Delude invece Prometheus, il ritorno alla fantascienza di Ridley Scott, che strizza un po' troppo l'occhio ad Alien e non riesce ad andare oltre il déjà vu. Impalpabile il cast, guidato dalla sopravvalutata Noomi Rapace. Dopo la pausa estiva, ritorna il nostro DVD Game, un film, tre tracce misteriose e la vostra cultura cinematografica messa alla prova per vincere il meglio della produzione in DVD e Blu-ray. David, ti prego dimmi che ci riesci a decifrarlo. Che stai facendo, David? Cerco di aprire questa porta. Aspetta, non sappiamo cosa c'è dall'altra parte. Ops, scusate. È incredibilmente umano. Bellissima pittura. Un murale. Fermo, fermo. Non toccarlo. Chiedo scusa. Per favore, non toccate niente. Oh mio Dio. Qui sta succedendo qualcosa di strano. Forse perché abbiamo alterato l'atmosfera. Charlie! David! Dobbiamo andarcene subito! Estratto da Prometheus, il primo film di cui vogliamo occuparci, anno 2093, una coppia di scienziati scopre in una caverna un disegno murale di qualche migliaio di anni prima, come altri ritrovati in diversi punti del mondo, raffigura una creatura che indica un punto nell'universo, una costellazione lontana, un pianeta abitato. Coi soldi di un vecchio miliardario che vede i suoi giorni sfuggire via uno per uno, i due scienziati si imbarcano sull'astronave Prometheus, sulla quale detta legge, o vorrebbe farlo, Meredith Vickers, bella quanto antipatica, che cerca di indirizzare la missione verso risultati unicamente commerciali, fregandosene delle velleità scientifiche. Sull'astronave tenta di mantenere gli equilibri un androide, ha i capelli come Lawrence d'Arabia e non ha sentimenti, ma è spesso l'unico dotato di buon senso sul carrozzone spaziale. Disturbo? Pensavo che l'avesse finito. Prendi un bicchiere anche per te. Grazie, ma sarebbe solo uno spreco darlo a me. Credi che sia stata una perdita di tempo venire qui, eh? La risposta a questa domanda dipende da che cosa speravate di ottenere venendo qui. Quello che speravamo di ottenere era trovare i nostri creatori e fargli delle domande. Prima fra tutte, perché ci hanno creato? Secondo lei, perché voi avete creato me? Perché ne siamo stati capaci. Pensi a che enorme delusione proverebbe se il suo creatore le rispondesse così. Posso farle una domanda? Ma certo. Fino a dove arriverebbe per ottenere le risposte per cui è venuto fin qui? Cosa sarebbe disposto a fare? Farei qualsiasi cosa. Tutto cambierà però una volta arrivati sul lontano pianeta, quando l'evidenza che non tutte le forme di vita aliene sono estinte, semmai pericolosamente dormienti, costringerà l'equipaggio a lottare per la propria sopravvivenza. Capitano! E adesso che succede? Ricevi! Su, dottoressa, è lei? Yannick, mi ascolti! Non può lasciare che parta! Deve fermarla! Noi non fermiamo niente, Su. Torniamo a casa. Yannick, se non la ferma, non ci sarà più nessuna casa a cui tornare! Prequel di Alien, anzi no, Ridley Scott con Prometheus torna alla fantascienza 30 anni dopo Blade Runner e 33 dopo il suo gioiello, appunto Alien, capostipite di una fantascienza che spostava l'horror nello spazio. E proprio ai suoi due capolavori sci-fi Scott si ispira, dichiarando apertamente di non voler fare un prequel di Alien, ma solo un film ispirato ai mondi raccontati da quella saga. Se è così, diciamo che il regista inglese esagera un po' con le citazioni. Numira Pass, di cui continuiamo a non capire le ragioni del suo successo, non è nemmeno lontana parente della Ripley di Sigourney Weaver, così come Michael Fassbender è la copia cotonata e atona di Ian Holm. Per non parlare del capitano di colore dell'astronave, burbero ma eroico, e della legnosa Charlize Theron nei panni dell'arpia di bordo Meredith Vickers. La sceneggiatura è semplice al limite del banale: gruppo eterogeneo e spaccato di astronauti va sul pianeta alieno con intenzioni e motivazioni diverse e, ivi giunto, scatena una guerra fratricida, da ognuno salvi il suo sederino, una volta capito che gli alieni sono tutt'altro che estinti e hanno belliche intenzioni nei confronti dei terrestri. Ogni snodo narrativo è prevedibile e telefonato, così il film vive una dicotomia fra l'impianto visivo pieno di grandeur, ma in gran parte già visto, dalle sembianze degli alieni al design delle astronavi, alla figura dello space jockey fossilizzato sulla sedia di comando dell'astronave a cui accede la ciurma della Nostromo all'inizio di Alien. Ricorderete, è proprio quello il punto da cui si parte e da cui ci si snoda. Una storia piatta che va a tratti avanti in maniera un po' noiosa di Alien, e chiunque chiedesse a Prometheus le risposte alle domande seminate nella saga di Alien si troverà in tasca nient'altro che 2 ore e mezzo di buon intrattenimento stereotipato. Andiamo a dare un'occhiata alla classifica degli incassi. In Italia, sorpasso in vetta lo scorso weekend con Il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno, che supera Madagascar 3, gli toglie la leadership. Dopo qualche settimana Il Cavaliere Oscuro è arrivato a 11 milioni globali, Madagascar 3 a 17,9, praticamente ormai veleggia verso i 20. Esordio al terzo posto, bene ma non benissimo, per Rebel, The Brave, Disney Pixar con 1,4 milioni, poi The Bourne Legacy, poi Shark 3D, il B-movie visto anche in una divertente proiezione di mezzanotte a Venezia, e poi Bella Addormentata di Marco Bellocchio, film sul quale si è tanto discusso, di cui abbiamo molto parlato qui anche alla Rosa Purpurea settimana scorsa, che porta a casa nel primo weekend circa 330.000 euro, un incasso insomma non esaltante. Aspettiamo lunedì per capire come è andata la settimana. Questo è il classico film da giorni infrasettimanali, per cui potrebbe avere sicuramente recuperato molto durante il centro della settimana. Adesso invece ci occupiamo di un altro film, una commedia, che cambiamo completamente genere e tono, con questo film che si intitola Che cosa aspettarsi quando si aspetta. Per una volta il titolo bruttino in italiano è esattamente la traduzione letterale di quello in inglese. Ce lo racconta la nostra Chiara Pizzimenti. Volevo solo essere radiosa, come ti promettono sulla copertina di certe riviste. Beh, io lo dico. La gravidanza fa schifo. Mettere al mondo un essere umano è veramente tosta. Non hai il controllo del tuo corpo, delle tue emozioni. Patatino, scusa, ho solo voglia di prenderti a pugni. A raccontarlo è una per niente rilassata Elizabeth Banks, presto mamma, dopo anni di tentativi e dopo aver fatto della maternità idealizzata anche un lavoro. Avrà una delle peggiori gravidanze possibili. Le altre declinazioni del cosa aspettarsi quando si aspetta, dal titolo del manuale sulla gravidanza più venduto negli Stati Uniti, le propongono Cameron Diaz, guru del fitness, Jennifer Lopez, fotografa per bambini che sta per adottare un piccolo, e Anna Kendrick. Ovviamente c'è anche un lato maschile, con il di nuovo padre e in contemporanea nonno Dennis Quaid e i mariti o compagni delle altre, ma soprattutto con il gruppo di autoaiuto maschile, guidato, passeggino alla mano, da Chris Rock. Hai fatto cadere tuo figlio dal fasciatoio. Sono cose che succedono, mio figlio si è mangiato una sigaretta. L'ho pizzicato che giocava nell'asciugatrice ieri. Io ho preso il bambino sbagliato all'asilo. Ho trovato mio figlio che nuotava nel WC. Non giudicare. Non è comune che un film nasca da un manuale. Certo, invece, film sulla gravidanza, Hollywood e non solo, ne ha prodotti molti. E questo, pur con le radici in un saggio, non è il più originale. L'intreccio delle storie è equilibrato, ma la sceneggiatura non approfondisce quasi nulla ed è carica di stereotipi. Una commedia sì, con spunti però talvolta troppo melosi e con il lato più divertente riuscito nei Padri Camminatori del sabato mattina. Si finisce un po' troppo spesso nella macchietta e non aiuta l'ambiente ovattato della upper class. Qui c'è il traino delle star in cartellone, ma l'attesa la raccontavano meglio American Life di Sam Mendes, anche Judd Apatow in Molto incinta ed Ellen Page in Juno. Al pubblico, non folto nelle prime proiezioni, il film però piace, comprese le coppie veramente in attesa. Sì, è divertente, divertente. Realistico? No, non tanto, però fa ridere. Sì. Perché ci hanno fatto delle belle risate. Ma è stato carino. Riflette secondo te l'idea dell'attesa? No, beh, io l'ho vissuta bene, quindi fortunatamente non l'ho vissuta in quel modo, insomma. Io guardo le case con Holly, ma mica le compriamo. Quando tua moglie dice che state solo guardando delle case, tu compri una casa. No, no. Oh sì, come no. Non compro una casa. Guarda le ricevute. Ben arrivato fra noi, accendi mutuo. E allora Cameron Diaz e Jennifer Lopez nel cast di questo Cosa aspettarsi quando si aspetta nei cinema italiani. Eccoci tornati al nostro DVD Game. Qualcuno ci ha chiesto anche sulla nostra pagina Facebook La Rosa Purpurea, a proposito della quale vi invito ovviamente ad andare a cliccare il vostro mi piace per essere aggiornati in anticipo sui temi della trasmissione e anche per trovare poi il podcast delle puntate. E dicevo, qualcuno ci ha detto: ma come, il DVD Game non c'è più? No, l'avevamo momentaneamente sospeso per ragioni estive prima e veneziane poi. Adesso ci risiamo e allora ricominciamo a giocare insieme a partire da questa clip. Devi assicurarti che i prototipi della fase 2 siano portati via. Signore, è davvero una priorità visto che ci troviamo di fronte. Quando il mondo non smetterà di esistere, agiremo come se intendesse ruotare ancora. E allora La Rosa Purpurea @radio24.it, di che film si tratta? Scriveteci il vostro nome e cognome, il vostro indirizzo per agevolare le eventuali spedizioni, perché il più veloce e bravo del sabato e della domenica riceveranno una copia del Blu-ray di questo film. Più tardi, come sempre, avremo un altro paio di clip. Conoscevo uno che per un graffio alla macchina ammazzò suo padre. Due colpi. Ciraulo si chiamava. E questo è il C'era una volta di È stato il figlio, il film di Daniele Cipri presentato in concorso a Venezia, che esce in oltre 100 copie questa settimana nelle sale italiane, che ha tenuto a Venezia almeno due obiettivi. Il primo è che è stato l'unico film italiano presente nel Palmarès, con il premio al miglior contributo artistico, al miglior contributo tecnico per la precisione, penso ci si riferisse alla straordinaria fotografia e all'uso del sonoro. Il secondo è che è stato il mio film italiano preferito, che conterà poco, ma sono qui apposta per dirvelo e ve lo dico. Si comincia ai giorni nostri, come avete sentito, un uomo che dimostra più dei circa 40 anni che ha, seduto in un ufficio postale dove i clienti gli danno soldi e bollette per far la fila al posto loro. Racconta la storia della famiglia Ciraulo, la cui esistenza 30 anni prima fu sconvolta da un banale graffio a un'auto e ancor prima dalla morte della piccola e innocente Serenella per colpa di un proiettile vagante e mafioso. Fu proprio quella morte a trasformarsi in un succoso quanto tardivo rimborso per le vittime di mafia, che mise la famiglia Ciraulo di fronte all'interrogativo: come usare questi soldi. C'è il bar di Testa Verde, quello di via Torremuzza, che è in vendita. Lo possiamo comprare così come si trova e poi lo aggiustiamo a poco a poco. E quando ci viene a costare? Io me ne voglio andare. Magari lo sai dove? A Viale Strasburgo. Così al posto di ste serrande vecchie ci mettiamo i belli infissi nuovi che sono più comodi. Che è sta casa? Non ti piace? Pure se siamo in affitto, che ci fa? Ci fa, che sono piccoli che ne scemo ogni mese. E poi così, perlomeno, ci lasci un qualche cosa a tuo figlio. Mamma figlio, se proprio devo morire, ci lascio quello che dico io. Nico, che ci vuoi fare con questi piccoli? Ma ce devo fare, non ti preoccupare. Bisogna comprare qualche cosa, dei hotel per tutto quanto. Ma che cosa, insomma? La macchina. Ma che macchina ti vuoi accattare? Un Mercedes. Solo che anche diventare ricchi e benestanti è un mestiere da imparare, così Ciraulo rimangono vittime delle loro scelte sbagliate. I soldi non bastano più, anzi ne servono altri, e altri ancora. E a prestarli, si sa, in questi casi sono quei gentiluomini degli strozzini, come il signor Pino. Permesso? Sì? Eccovi! Buongiorno, signor Pino. Ci possiamo accomodare? Prego, prego, accomodatevi! Assetta, De Nicola. Signor Pino, ci ho portato il mio amico Nicola che ci deve parlare. Io qua sono. Le condizioni le sai? Alla Rosa Purpura c'è Daniele Cipri. Ciao Daniele. Ciao a voi, ciao. Grazie. Allora, film universale, questo è stato il figlio che racconta tante cose del nostro oggi, dalla crisi alla mancanza di prospettive per i giovani, alla presenza mafiosa, al dramma dell'usura, il tutto però in quel clima di strampalata favola nera che è stata sempre un po' la cifra del tuo lavoro precedente. Sì, ho trovato, secondo me, giusta questa formula della favola nera, il gruppo. Scopo per raccontare questo dramma familiare che ogni tanto, quando adesso mi è capitato di sentire il signor Pino e l'ambiguità di Giacalone, che è veramente attuale, confondere la banca, gli interessi bancari con quelli dell'usuraio, o perlomeno accettare di comprare un giocattolo con soldi che vengono da una morte, da una disgrazia, quindi un risarcimento. Quindi questo mi faceva sentire molto il dramma, dramma che io poi ho trascritto in un altro modo nel finale, come chi ha visto il film, però sicuramente è molto una famiglia italiana, è un urlo dalla Sicilia, però sicuramente è una famiglia non disegnata nel grottesco, l'ho fatta diventare universale perché il libro era molto potente, il libro di Robert Stein era molto potente, quindi mi ha posto in crisi, ecco. Ecco, infatti ti volevo proprio chiedere, cos'hai tenuto e cos'hai aggiunto o tolto dal libro di Roberto Alaimo? Ma intanto la posta, perché l'idea viene da questa numerazione, quest'ordine che mi è capitato in una giornata mia, tipo di andare a pagare una bolletta e ho visto un signore che raccontava una storia di problemi della sua famiglia, però questa storia la raccontava a tanta gente, ma a nessuno, perché la gente si alzava, perché arrivava il suo turno, poi se ne andava e arrivava un altro, e poi... allora questa cifra di frammentare, di non raccontarla, o perlomeno raccontare dei piccoli, mi è venuta, avevo detto, ma guarda un po', c'è la stessa cosa che succede con il libro, perché il libro lo volevo frammentare, quindi ho aggiunto il narratore, ho aggiunto la cifra di Pino dell'usuraio, che non era detta così, però ho mantenuto quello che era nel libro la cosa più importante, quindi questa ottusità, questa gestualità, questo comportamento che un po' appartiene a quelle famiglie di un tempo che però non sono neanche cambiate per certi versi. Adesso abbiamo i cartellini, la televisione, abbiamo tanti modi per essere più imbecilli, però dico senza offesa per nessuno, e io non ho voluto raccontare o moralizzare, io ho fatto uno specchio come un disegno, un po' mi ricordano i disegni dei Simpson, no? Che praticamente parlano di tutto, moralizzano, però sono in un altro mondo, in un altro tempo, in un luogo, e quindi disegno. Io, siccome non so disegnare, me la sono inventata questa scatola, l'ho messo lì degli attori straordinari che mi hanno evocato. Certo, assolutamente. Vanno citati da Tony Servillo, viene da dire ovviamente molto bravo, ma insomma qui con una cifra mai vista prima, perché lui è anche capace di fare questo, a Fabrizio Falco che appunto hai portato insieme a Bellocchio al premio a Venezia, ma sì, anche a un cast di contorno, tra l'altro ricordiamo anche Alfredo Castro che per i cinefili è il Tony Manero dell'omonimo film cileno, insomma, ecco, quindi un volto sicuramente già visto e già che ha già penetrato, diciamo, il pubblico italiano. Dicevo, è anche un cast di contorno straordinario, questi attori che riescono a fare delle cose anche con poche battute a disposizione davvero, davvero notevolissime, insomma. Tu dicevi, Daniele, un film fuori dal con un non luogo, cioè una sorta di non luogo, direi anche un non tempo in un certo senso, perché nel tuo film si vedono macchine fine anni 70, ma ad esempio il valore valore dei soldi sembra più recente. Ecco, perché hai voluto mischiare le carte temporali del tuo film? Ma perché a me ci sono degli elementi del contemporaneo che non mi danno fastidio, e siccome non volevo fare un film in costume o evocare un tempo proprio preciso, mi piaceva dare la contaminazione. Tanto è vero che Alfredo Castro è in un futuro che è catastrofico, è isolato, è da solo anche quando è con gli altri. La cifra della famiglia Ciraulo è col contesto di un'automobile che ha un tempo. Quindi diciamo, ho giocato anche con questi valori del nostro tempo. Quindi negli anni '80 c'era il Mercedes, c'era una famiglia che se lo voleva comprare, quindi c'era l'elemento, ma come ci sono degli elementi della giornata tipo, che sono le giornate tipo che vivevo anch'io da ragazzo con la mia famiglia. Andavamo in spiaggia a portarci la casa, cioè noi ci portavamo la pasta al forno, ci portavamo il melone, cioè avevamo praticamente il luogo come se era una nostra casa. Quindi ho contaminato questi elementi sperando di poter ottenere il risultato del più misto, che poi era in un luogo, e spero di esserci riuscito, ecco. Ti faccio un'ultima domanda, Daniele. Perché un film girato a Brindisi nonostante l'ambientazione palermitana? Ma guarda, io all'inizio volevo girarmi in Ucraina, perché io mi innamoro molto dell'immagine del luogo, cioè io non riesco a filmare, non sono mai riuscito a filmare Palermo, cioè io ho sempre filmato le periferie, le fabbriche, le ciminiere, però parlavo da Palermo, quindi per me è fondamentale, è importante avere l'immagine. Allora, in questa immagine Marco Lentici, che è stato il mio scenografo, praticamente abbiamo fatto un lavoro di scegliere un luogo che era delle case popolari, ma che dovevano avere un disegno particolare. Allora lui mi fece vedere Brindisi e gli accettai immediatamente, perché c'è questo fortino dove Palermo non è lontana, e loro sono in periferia, quindi mi serviva un disegno, un percorso, un tormentone, che poi non racconto il film perché tu l'avrai visto. Ci sono degli elementi anche di Palermo, per esempio mi sono portato a Monte Pellegrino, quindi ma dichiarando che quello non è un luogo di Palermo, ho preso Monte Pellegrino e l'ho messo da un'altra parte, da un posto che è un porto dove Ciraulo lavora, quindi quello è Palermo per me. Daniele, grazie per la tua presenza qui alla Rosa Purpurea. Ricordiamo 113, se non sbaglio, schermi per questo film. 115, sono diventati 115. Quindi, come dire, un film che esce anche con una certa visibilità. Questo ci fa piacere. Insomma, speriamo che sia uno di quelli che il pubblico italiano apprezza e che fa un po' riscoccare l'amore con il nostro pubblico. Grazie ancora, Daniele Cipri. Grazie a voi. Terza parte della Rosa Purpurea, e arriva il momento del Leone d'Oro, che ha ruggito solo una settimana fa al Lido di Venezia. Pietà di Kim Ki-duk, come ormai abbiamo imparato a dire da questa edizione del Festival di Venezia, sostituendo il vecchio italianizzato Kim Ki-duk. Comunque sempre lui è grande regista coreano, giunto al suo 18° film, come ama sottolineare anche nei titoli di testa, per raccontare questa storia, questa piccola storia potente di un recuperatore di crediti a suo modo, insomma, assunto da uno strozzino per ottenere il pagamento dei debiti dei clienti, che sono tutti piccoli artigiani di un piccolo quartiere dei bassi fondi di Seul, fatto di catapecchie in lamiera, dove appunto ci sono questi piccoli artigiani che lavorano, che quando non ce la fanno ricorrono a questo strozzino. Lui è il recuperatore Kang Do, un ragazzo sui 30 anni, fisico prestante, aspetto piacente, arriva lì e si comporta come un macellaio, tronca dita, spezza mani, fa di tutto, anche perché è uno che ci pensa questa cosa, perché così i suoi, diciamo così, sottoposti in quel momento, clienti, otterranno cospicui risarcimenti dalle assicurazioni e potranno pagare il loro debito all'usuraio di turno. Un uomo senza pietà, oltre che con poca qualità, potremmo dire, ma... un giorno nella vita di quest'uomo irrompe una donna misteriosa, molto più grande di lui, che dice di essere sua madre. All'inizio lui si ribella a quest'idea, poi faticosamente l'accetta. Nel momento in cui l'accetta comincia ad esserne dipendente, comincia ad avere bisogno della figura di questa donna, di questa figura materna che lui non ha mai avuto. Questa donna dice: ti ho abbandonato da piccolo, e gli racconta le sue ragioni, però insomma il tutto, diciamo così, si... svilupperà in una metamorfosi che vedrà cambiare la persona forte e quella debole, il sottoposto e chi comanda, e nel corso del film i ruoli si invertiranno e partirà una storia di vendetta che appartiene forse di più all'altro grande coreano Park Chan-wook che non alla solita grande capacità registica di Kim Ki-duk. Sentiamo una clip e ne parliamo con Boris Sollazzo. Kang-du, mi dispiace di averti abbandonato. Perdonami. Cosa sono i soldi? L'inizio e la fine di tutte le cose. Amore, onore, rabbia, violenza, odio, gelosia, vendetta. Non è un trailer che lascia capire moltissimo del film questo, fortunatamente non è uno di quei trailer didascalici, tante volte hai visto il trailer e hai visto il film, invece in questo caso non è assolutamente così. Boris Sollazzo, un saluto anche a te. Allora, un piccolo, grande film, in questo senso piccolo come produzione, due personaggi, luoghi abbastanza angusti e piuttosto limitati come set, ma una storia che va oltre, diciamo, la vendetta, come dicevo prima, raccontata per esempio in Old Boy da Park Chan-wook, va anche a raccontare un microcosmo sociale e una storia estremamente umana fra quest'uomo e questa sedicente madre che a un certo punto prende il sopravvento. Sì, racconta sostanzialmente Kim Ki-duk la forza dell'amore e dei sentimenti quando si crede in essi. Non c'è bisogno che ci sia del sangue, un anello, una promessa, un contratto a sancirli, spesso e volentieri basta quello che si crede e quello che si vuole credere. Racconta questo, ma racconta anche la natura umana che può arrivare ad ogni tipo di abiezione o comunque di esagerazione per soddisfare il proprio dolore. Lo fa lo strozzino che, come dicevi tu, fa qualsiasi cosa per prendere soldi non suoi, poi, perché lui stesso è comandato da uno che se ne sta comodamente seduto in un ufficio, lo fa questa signora che arriva probabilmente a tradire se stessa pur di mantenere una promessa fatta. Quindi Kim Ki-duk racconta una parabola di fatto quasi biblica, in cui più che pietà sembra esserci una sorta di Dio, Dio vendicativo che fa star male tutti. In qualche momento Kim Ki-duk dà l'impressione di essere una sorta di Von Trier coreano, peraltro fa ancora tra virgolette più paura questa forza con cui racconta determinate storie, e questa storia di rapporto madre-figlio così particolare, perché il quartiere abbastanza alienante di piccoli artigiani che citavi è il suo, è un quartiere dal nome impronunciabile, è un quartiere di una periferia abbastanza dimenticata, perché non è, come ha detto lui, non è abbastanza povera da fare impressione, non è abbastanza ricca da essere importante. Però insomma racconta, ecco, questa parabola che lascia abbastanza sconcertati. A mio parere è meritato il Leone d'Oro, probabilmente come al solito lui nella sua seconda produzione è un po' più furbo e dà agli occidentali quello che pensano gli occidentali sia il cinema orientale, e quindi ammicca forse un po' troppo al nostro gusto. Mi piacerebbe un po' più coerente come era fino all'Isola, però di sicuro comunque è un gran film e di sicuro uno dei migliori film visti a Venezia quest'anno. E questo allora è il Pietà, tra l'altro accolto alla Consiglia del Leone d'Oro da Kim Ki-duk con un canto, questo Araran, che era stato anche un suo precedente film, insomma si è liberato cantando ed è stata sicuramente una delle più originali prese di leone, diciamo così, della storia veneziana. A questo punto noi chiediamo a Boris di rimanere con noi, perché fra poco dobbiamo parlare anche degli Equilibristi, altro film italiano, altra proposta italiana in sala in questo fine settimana. Prima però, seconda traccia del DVD Game. Quando ero congelato, il mondo era in guerra. Mi sveglio e dicono che abbiamo vinto. Ma non che cosa abbiamo perso. Abbiamo commesso degli errori lungo la strada, alcuni di recente. Il nostro indirizzo di posta elettronica, larosapurpurea@radio24.it. Scriveteci di che film si tratta, il vostro indirizzo postale, per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Più tardi avremo l'ultima possibilità. E allora parliamo degli equilibristi, dicevamo, quinta e ultima proposta cinematografica di cui abbiamo voluto lasciare spazio, insomma, in questa puntata della Rosa Purpura. I film che escono al cinema questo weekend sono 6, ne abbiamo scelti, sono proprio 5 in realtà, e quindi li abbiamo trattati tutti, ma come avete visto c'è una proposta molto variegata. Anche Gli Equilibristi è stato mostrato alla Festival di Venezia, un film che riflette, anche in questo caso pensate, ci sono c'è uno substrato sociale importante, una famiglia che si sfalda, e questa non è purtroppo una novità, un impiegato che con i suoi 1200 euro al mese di stipendio deve mantenere se stesso e la moglie dopo la separazione, che vive con i due figli. Insomma, i salti mortali che tanti conoscono sulla loro pelle, un bel personaggio femminile interpretato da Valerio Mastandrea, che appunto è l'equilibrista, se vogliamo, un po' numero uno del titolo e della locandina. Sentiamo la clip e ne parliamo. No, devi stare calma davanti a tutti. Tutta la colpa tua, dovevi pensarci prima, cazzo. Non riesco a uscire da questa storia. Mi sembra di impazzire se penso alle frasi che vi scrivevate. Lo capisci o no che non ce la faccio neanche più a guardarti in faccia? Quante volte ne abbiamo parlato? Ho fatto solo una cazzata. Per te era una cazzata, per me no. A me mi ha fatto male. Dio mio, che tristezza. L'errore di cui si parla nella clip è proprio questo tradimento, se vogliamo, così quasi casuale, con cui si apre tra l'altro il film, e da quel momento la vita di questi due personaggi si sgretola fino a rendere, diciamo, inevitabile l'abbandono del tetto coniugale, fino a rendere impossibile la convivenza. Sono mesi che andiamo avanti così. Io non ce la faccio più, Giulio. Ci abbiamo provato, ma non ce la faccio più a far finta. Ormai litighiamo anche davanti a loro. Questo non mi sembra giusto. Non è giusto, no? Un po' che ci penso. Va bene, me ne vado. Hai ragione. Mi trovo un posto qua vicino così posso vedere i ragazzi. Penso a tutto io, non ti preoccupare. Boris, questo Gli Equilibristi, il tema, dicevamo, è di drammatica, se vogliamo, attualità, da qualche anno, insomma, questo sfaldamento della famiglia, di una coppia meno che piccolo borghese, ma insomma comunque alla quale non mancherebbe niente, i due figli, però poi dopo l'incidente di percorso e una vita che va in frantumi, e da quel momento in poi un vero e proprio calvario, che il film diretto da Ivano Di Matteo racconta con un tono però che non è solo tragico, in certi momenti è tragicomico, è un tono anche leggero che permette forse anche di respirare un po' durante il film. No, assolutamente d'accordo. È curioso come questi due film siano, secondo me, molto legati, quello di Kinky Doc e quello di De Matteo, perché i soldi sono il centro attorno a cui gravita comunque una tragedia. Un grande uomo ha detto che se la storia si ripete sempre due volte, la prima in forma di tragedia e la seconda in forma di farsa. Ecco, se vogliamo fare un parallelo cinematografico, se Umberto D era la tragedia di De Sica, in questo caso c'è anche una tragedia di De Matteo, che però ne fa vedere anche gli aspetti della farsa, perché qui parliamo di un paese che si è creduto ricco per 30 anni, per 20 anni, ha vissuto un'illusione di ricchezza che adesso si scopre povero, che si scopre a un passo dall'uscire dall'Europa, e un ceto piccolo borghese che si scopre invece probabilmente proletario. Lo scopre Valerio Mastandrea, non ne è cosciente neanche lui, perché proprio in quella clip dice: me ne vado io, trovo una casa qui vicino, quindi neanche lui sa che quello che hanno gli basterà per mantenere se stesso e la sua famiglia, e lo scopre con noi, lo scopre vivendo la storia che noi vediamo negli Equilibristi. Ed è una storia tragica, tremenda, perché è una lenta e inesorabile caduta in una sorta di girone dantesco in cui si vive continuamente con il proprio contrappasso. E De Matteo, secondo me, è straordinario nel raccontare i dettagli di questa povertà. Questa povertà che comincia a mangiare la vita di Mastandrea, a mangiargli la dignità, a mangiargli la luce che ha negli occhi, quella luce che è vivace all'inizio diventa spenta alla fine. Lo fa senza retorica, senza enfasi, grattando via sempre un po' più di felicità, un po' più di gioia, perdendo anche il rapporto con la figlia. È una tragedia che si vive piano piano come la quotidianità, e per questo commuove molto, e allo stesso tempo ogni tanto fa sorridere, perché De Matteo non si sottrae neanche a quei momenti che sono inevitabilmente comici di chi non sa sopravvivere. Come ha detto lo stesso De Matteo, è la tragedia di un uomo che è troppo povero per sopravvivere in questa società, ma troppo ricco per essere aiutato da questa società. Secondo me è un film che tutti dovrebbero vedere, purtroppo ha fatto nel primo giorno solo 19.000 euro, ma a mio parere racconta il nostro paese in maniera sconcertante, ma verissima, va visto quasi come un avvertimento e non solo come un bel film. Grazie allora Boris, appuntamento alla prossima settimana. Grazie a te Franco, appunto la prossima settimana. Quarta parte della Rosa Purpura, un altro ritorno, quello degli amici del settimanale Film TV e delle loro segnalazioni dei film, come sempre da vedere in chiaro e gratuitamente sulla televisione digitale terrestre. E allora saluto Giulio San Giorgio, ciao Giulio. Ciao Franco e ben ritrovati con le nostre segnalazioni. Allora, cominciamo con un maestro che ha, nonostante i suoi 104 anni, ha portato un film all'ultimo Festival di Venezia. Stiamo parlando di Manuel de Oliveira, ormai una sorta di Highlander del cinema mondiale. Qui siamo con uno dei suoi film più rappresentativi, A Caixa, la cassetta, che passerà lunedì 17 settembre a 12:45. Su Rai 3. Sì, lunedì alle ore 12:45 su Rai 3, fuori orario, recupera l'ennesimo sottile, sublime film di Manuel de Oliveira, A Caixa, la cassetta, in prima visione TV. A Lisbona un mendicante cieco vive di elemosine, della vendita di piccole cose, i soldi che guadagna li custodisce in una cassetta datagli dal governo, che serve anche ad attestare il suo stato ufficiale di non vedente, ma questo crea delle invidie, un giorno l'oggetto viene rubato. Da una pièce teatrale, un film dove il protagonista è la strada e il Portogallo, prima che l'uomo è questa scatola. E il desiderio che nasce dall'abisso della miseria è capace di illuminare il realismo con squarci di ironica e assurda poesia, un film assolutamente da recuperare. E allora questo è il film di De Oliveira, lunedì 17 settembre 12:45 Rai 3, mentre invece martedì 18 settembre sulla 7 e venerdì 21 su Rai 4 due film di David Cronenberg, li avevamo voluti mettere insieme, da una parte Inseparabili, dall'altra Videodrome, due dei suoi capolavori. Sì, martedì alle ore 23:20 su 7 Gold, Inseparabili, e venerdì alle 23:40 su Rai 4, Videodrome. Sono due dei classici anni 80 di David Cronenberg, regista che continua a riflettere sulla contemporaneità e sul rapporto tra la carne e lo sviluppo tecnologico, basti pensare all'ultimo Cosmopolis. E se Videodrome è una delle opere più lucide e feroci sulla televisione, capace di comprendere e restituire in maniera allucinata e violenta come la percezione del mondo cambi in base ai media che si pongono tra noi e la realtà, con Inseparabili entra invece nel cuore del suo cinema con un film implosivo, completamente concentrato sull'interiorità e sulla tragedia dell'umanità sempre più alienata, con un doppio veramente incredibile Jeremy Irons. E allora questa è la doppietta Cronenberg durante questa settimana televisiva, grazie a Giulio San Giorgio e alla redazione di Film TV. Grazie a te Franco, un saluto ai radioascoltatori, alla prossima settimana. Siamo giunti alla terza e conclusiva traccia del film misterioso di oggi. Dubiti di noi. Dubiti di lui. Che ha messo lo scettro nelle tue mani. Che ti ha donato l'antica sapienza e un nuovo proposito quando sei stato bandito, sconfitto. Io ero un re. Il legittimo re di Asgard. La Rosa Purpurea @radio24.it, di che film si tratta, nome, cognome e indirizzo, provate a vincere un Blu-ray di questo film per il sabato e per la domenica. La settimana prossima ovviamente vi sveleremo chi sono i vincitori e vi sveleremo anche di che film si tratta, mentre cominciamo adesso a ritornare a un'altra abitudine, sana abitudine della Rosa Purpurea, cioè quella di raccontarvi il meglio della produzione in un video che si affaccia in videoteca, e lo facciamo come sempre con il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, cominciamo con un capolavoro del cinema italiano come Germania No Zero. Tu dovresti avere una donna che si occupi di te. Una donna? Ci mancherebbe anche questa. Come se non mi bastasse questa vita da cani. Non devi prendertela, su, coraggio. Ne ho avuto coraggio. Perché un soldato può perdere tutto, ma non il coraggio. Ma forse che sono ancora un soldato. Oggi valgo uno zero. Oggi non sono che una bocca inutile in più. E farei molto meglio a buttarmi dalla finestra. Nella Berlino dell'immediato dopoguerra, il dodicenne Edmund sopravvive con una famiglia in gravi difficoltà tra disoccupazione e malattia, vivendo di barati e microcriminalità e con pochi momenti spensierati. Il suo vecchio maestro di scuola, nazista convinto, lo spingerà verso un tragico destino. Questo livido capolavoro del neorealismo è giunto in alta definizione Blu-ray a cura di Flamingo Video, un'opera in bianco e nero che nonostante il restauro e l'alta risoluzione dell'immagine non versa in buone condizioni e che su Blu-ray guadagna relativamente dal punto di vista tecnico. Interessanti gli extra, tra cui intervista a Renzo Rossellini e Carlo Rizzani. Action, fantascienza, mistero e anche tante risate con Men in Black 3. Il latte al cioccolato allevia i mal di testa delle fratture temporali. Cos'è una frattura temporale? Un'interruzione del tempo. Non capisco di cosa parli. Il viaggio nel tempo, il viaggio nel tempo. Non esiste il viaggio nel tempo. Beh, invece sì. No, niente da fare. Perché se esistesse, un agente senior di prima classe come il sottoscritto ne sarebbe stato messo subito al corrente, dico bene? È un'informazione riservata e al di sopra della tua paga. Sai una cosa? Voglio un aumento. Fuggito da un supercarcere sulla Luna, lo spietato alieno Boris ha passato 40 anni progettando la sua vendetta contro l'umanità e in particolare contro l'agente K dei Men in Black, che era riuscito a catturarlo. Con un viaggio indietro nel tempo Boris lo elimina, costringendo il collega Nico, l'agente J, a fare lo stesso balzo temporale dal 2012 verso il 1969 nel disperato tentativo di salvare un giovane agente K ed evitare così un'imponente invasione aliena. Torna il simpatico attore Will Smith nei panni dell'agente J al fianco dell'agente K, ovvero Tommy Lee Jones, che nella versione giovane è interpretato da Josh Brolin. Tra vintage e politically correct, il film dimostra più grinta del suo predecessore. Edizione video di Sony Pictures Home Entertainment di eccellente qualità tecnica, in alta definizione 3D e 2D, con un notevole volume di extra per approfondire la lavorazione, supplementi presenti tra l'altro in esclusiva per il Blu-ray con ben 3 capitoli da visionare in 3D. Nel 1997 il fumetto d'autore cominciava a fare i conti con le sue trasposizioni cinematografiche e lo faceva con Spawn. Il suo corpo necroplasmatico è distrutto dal dolore. La sua memoria è frammentaria. Per lui gli eventi della Corea del Nord sono appena accaduti. In realtà Malebolgia lo ha tenuto prigioniero nelle tenebre per 5 lunghi anni. Mentre sulla Terra le cose cambiavano per accrescere la sua rabbia e la sua sete di vendetta. Va a riprendersi la sua umanità. Quanta ne sia rimasta, è ancora da vedere. Tradito da un agente federale, Al Simmons, killer al soldo del governo americano, si ritrova all'inferno, tornando sulla Terra 5 anni dopo sotto forma di mostruosa creatura dotata di poteri sovrumani al comando del demone Malebolgia, che intende servirsene per invadere la Terra. Dopo aver tentato di ricongiungersi ai suoi cari, Simmons cercherà vendetta, finendo addirittura contro il Signore degli Inferi. Ispirato all'omonimo fumetto di Todd McFarlane, questo action horror soffre per una storia tratta improbabile infarcita di una sarabanda di effetti speciali della Industrial Light and Magic. L'edizione Blu-ray di Warner non offre un significativo salto in avanti rispetto al precedente DVD, se non per una maggiore solidità delle immagini. Identica tra l'altro la traccia audio Dolby Digital per l'italiano, migliore la DTS ad alta risoluzione in inglese. Come extra segnaliamo il commento tra gli altri del regista assieme a Todd McFarlane, purtroppo non sottotitolato. Ci sono focus sulla produzione e confronto tra il girato e storyboard e video musicali. E allora grazie Claudio Pofi, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto. Siamo arrivati alla fine della puntata della Rosa Purpurea. Ancora un paio di cose da dirvi. Uno, andate al cinema, perché chiaramente noi adesso ve li abbiamo raccontati i film, adesso diteci un po' la vostra. Fatelo anche attraverso la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate su mi piace e vi aggiungete al già nutrito novero di persone che hanno chiesto di essere aggiornate e di poter sapere in anticipo i temi, di poterci dire la loro, di poter risentire la puntata dal lunedì in poi. E poi, se non riuscite ad andare al cinema e siete nei pressi di Milano, non fatevi sfuggire al Teatro Carcano dal 20 al 26 settembre la versione di Barney, versione teatrale del romanzo di Mordecai Richler, che nel 97 ottenne un successo planetario con questo libro, e nel 2010 ebbe una versione cinematografica, la ricorderete, protagonista Paul Giamatti. Questa volta è invece Antonio Salines a impersonare il protagonista della pièce, che fu anche il protagonista protagonista del film, questo Barney Panofsky, che racconta la sua autobiografia per scrivere la sua versione dei fatti che portarono alla morte di un amico, una cosa della quale vuole liberarsi e vuole togliersi di mezzo il peso di questa storia. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Appuntamento alla prossima settimana.